Cialtroni nello spazio, ogni mercoledì più o meno alle 12.40 fino a più o meno alle 13.15, 13.20 a tenervi compagnia con musica, informazioni digitali, informazioni relativamente al software libero e un sacco di cose carine. Marco se n'è andato, quindi non possiamo chiedere a lui che cosa rappresenta questa trasmissione. Lo chiediamo ad Alessandro e poi a Marco faremo dire la scaletta. Marco è tornato con un paio di belle cuffie in mano, quindi tra poco sarà pronto e reattivo ad agire con la trasmissione. Fa freddissimo, ho preso le cuffie. E speriamo che la giornata non riservi altre battute da parte di Marco. Abbiamo detto già. Mi era piaciuta. Va bene, dai. Allora, brevemente abbiamo detto che cos'era Cialtroni nello spazio, quindi trasmissione di musica, cultura, informazioni digitali. L'approfondimento informatico-tecnologico di Radio Onda d'Urto. In onda tutti i mercoledì dalle 12.40 circa. Cioè adesso. Fino alle 13.15, 13.20. Ricordiamo subito circa. Addirittura anche l'indirizzo mail, che è radio@circolab.net, che così se volete contattarci o fare delle richieste di approfondimento fatecelo sapere. Il sito invece non ve lo ricordiamo perché è fermo a un anno fa, quindi non ha senso alcuno ricordare. Ci stiamo decialtronizzando adesso. Da adesso in poi, tra poco, ci decialtronizzeremo e Marco ci presenta brevemente la scaletta di oggi. Allora, parleremo di... almeno ne parlerò io di... No. Voto elettronico negli Stati Uniti, abbiamo... Un paio di commenti sui consumi energetici dovuti alla Information Technology. Parleremo dell'uscita di Windows Vista, dovrebbe essere stanotte. Ieri avvenuta. Ieri. Wow, che emozione. Una petizione per cambiare e eliminare la legge Urbani. Parleremo del digital divide con i progetti di NGI per portare connettività internet via wireless in un sacco di posti. E poi notizie dal mondo Linux, mondo della comunicazione indipendente. Invece che cosa ci presenta la musica questa sera? Non abbiamo ancora deciso. Ne parliamo tra un attimo. La faccia di Alessandro è stata molto significativa in effetti rispetto a tutto questo. Penso che Zamp non farà la prossima puntata. Muorerà prima. E intanto a tenerci compagnia ci sono sempre i Chemical Brothers Remixed che e ci meno male introducono la prima notizia di oggi. La vogliamo dedicare invece, contrariamente a quanto vuole fare Marco, io decido per tutti perché sto fai parlando per primo. Andiamo a leggere un articolo molto carino e simpatico che riguarda l'arrivo di Windows Vista sul mercato globale. L'ultima versione di Windows, con il suo pesante fardello ambientale, con metà delle innovazioni perse per strada, arriva sui PC di tutto il mondo la mancata rivoluzione di Microsoft. Ma l'attesa, complice di una robusta iniezione di denaro sui media, è tanta. Questo l'attacco dell'articolo pubblicato da Zeus News lunedì scorso, che andiamo a leggere per intero, cosa che non facciamo sempre, ma questo è proprio carino. Immaginiamo un mondo costretto ad alimentarsi di un solo cibo, per esempio una variante transgenica del riso chiamata finestre. Immaginiamo che a prescindere dalle qualità nutritive di questo riso, invero piuttosto basse, la mancanza di un'alimentazione variata provochi nelle persone malattie come la lebbra, la scabbia, i forungoli, i porri e la gotta. Sono nate così e prosperano alcune aziende che vendono integratori alimentari chiamati antivirus, inutili per chi ha un'alimentazione sana, ma dannatamente necessari a chi si nutre di finestre. Ora supponiamo che l'azienda che produce finestre abbia deciso di far uscire una nuova versione del suo riso OGM, una versione che richiede tempi e temperature di cottura tali che non potremo usare più le nostre vecchie cucine e pentole per utilizzarlo. Dovremo buttare via tutto quello che fino a 2 mesi fa ci è stato venduto come l'ultimo ritrovato della tecnologia. Echi lontani giungono da alcuni ribelli, che si autoproducono alimenti biologici e vivono felici, senza antivirus né scabbia, ma è tutto inutile. Nonostante la vaga sensazione di essere presi per il naso, nonostante il salasso pecuniario annunciato, nonostante alcune remore di tipo etico-ambientale, l'entusiasmo cresce sapientemente guidato da oculati investimenti pubblicitari. È una situazione drammatica, ai limiti della verosimiglianza, ma sappiamo che nel settore dell'information technology è esattamente quello che succede da almeno una decina d'anni. Il 30 gennaio è il giorno di vista, il giorno in cui la Microsoft sferra la sua zampata nel settore in cui, nonostante le diversificazioni, produce il 60% del fatturato e l'80% degli utili, con un investimento di 6 miliardi di dollari, grazie al lavoro di 8.000 persone. Anche un gigante come quello di Redmond si mette in gioco, troppo terreno aveva perso rispetto alla temibile Apple e ancora più terribili pasdarand del software libero. Bella la definizione di pasdarand del software libero, comunque. Aiuto, grande è stato e grande sarà l'investimento per blindare PC del futuro. Vista permetterà di far girare contenuti digitali sicuri, ad alta definizione, ma soprattutto legali. Così Peter Gutman, nella sua ormai famosa Cost Analysis, ammonisce sull'impoverimento della qualità delle riproduzioni audio e video di file non riconosciuti come autentici. Riprodurre da schifo musica e video regolarmente pagati è già un danno, ma che sa di DRM, TCG e Palladium sa che questo è solo l'inizio. Zio Bill deve anche rispettare i patti con i produttori hardware, quindi niente vista sulle macchine attuali, a meno che non siate un po' larghi con l'ultimo acquisto, quindi un gigabyte di RAM, o meglio due, processore di grido, hard disk ciccioso, una scheda video di ultima generazione. Questi sono i parametri principali per permettersi di poter installare il nuovo, tra virgolette, gioiello di Microsoft. È un limite, certo, per molti addirittura una fregatura, ma zio Bill lo ha trasformato in un vantaggio politico, una fonte di sviluppo economico. Microsoft spera di installare Vista su almeno 200 milioni di computer entro la fine del 2008. Se l'Università dell'ONU non dice il falso, questo significa che 40 milioni di tonnellate di combustibile, 4 milioni e 400 mila tonnellate di sostanze chimiche pericolose impiegate e 300 milioni di metri cubi di acqua potabile saranno sprecati senza vantaggi per l'utente. Così, come qualche anno fa il Consiglio dei Ministri ci costringeva a ringraziare quelli che andavano a far la spesa, ora dovremmo ringraziare Microsoft, che ci farà tirar fuori un sacco di quattrini a favore di uno sviluppo economico non sostenibile. Per contro, Linux va ottimamente su computer vecchi di 6 anni, le sue interfacce 3D come Berry le Compix, più avanzate di Aero, quella di Vista, vanno facilmente su macchine di 3 anni di età. Lo stesso vale per Mac OS X, che riesce a far girare il suo Aqua su macchine del 2001. Una delle migliorie più sbandierate, il WinFS, un sistema di immagazzinamento dati, è stato sepolto tempo fa, mentre la concorrenza gira su file system evoluti da un numero enorme di anni. Tutto questo ci fa presumere che quella di Vista non sarà affatto una rivoluzione, ma bisogna urlarlo per farsi sentire. Il rumore della fanfara mediatica è assordante. Questo era Michele Bottari, articolo pubblicato da Zeus News. E direi che con un po' di ironia Michele Bottari ha espresso molti dei sentimenti che in questo momento stanno, diciamo così, circolando nel sangue di molti della comunità del free software e di molti quelli che sono assolutamente certi che la rivoluzione di Windows c'è solo per l'enorme bagage pubblicitario che Windows sta facendo. Ironia, ma anche molte componenti di verità nell'articolo. Appaiato a questa notizia, quindi all'uscita di Windows Vista, per cui la campagna mediatica è partita quasi due anni fa, con un crescendo di aspettativa generata negli utenti. E esce anche questa notizia che comincia a dare un po' il senso dell'accordo che c'era stato tra Microsoft e Novell. In particolare Microsoft venderà Linux, o meglio dei coupon per avere il supporto a SUSE Linux, che è una distribuzione Linux nella versione Enterprise Server, e lo venderà niente proprio di meno che Walmart, che è il colosso mondiale della grande distribuzione, nonché uno dei principali acquirenti di Microsoft nel mondo, considerando i computer che avrà a disposizione Walmart. Quindi in forza dell'accordo che ha fatto con Novell, un accordo su cui la comunità open source aveva storto il naso, fortemente storto il naso, e comincia a far vedere i suoi effetti. In sostanza Microsoft venderà Linux, ed è proprio il nocciolo della questione, che quello che vende Microsoft comunque la qualità di quello che vende Microsoft è indifferente, l'importante è venderla, cioè sfruttare i canali di comunicazione e il potere mediatico che ormai ha il logo Microsoft, per cui interessa anche poco vendere Linux a una società enterprise purché sia marcato Microsoft, così come vendere un sistema operativo totalmente inutile purché faccia riconquistare fette di mercato e imponga delle scelte come il DRM o gli upgrade hardware, come spiegato nell'articolo di Bottari. E sempre su Vista, sull'importanza di vendere, negli anni passati le nuove release di Microsoft, i vari opinionisti del settore sconsigliavano l'acquisto del nuovo sistema operativo e consigliavano altresì di attendere nell'acquisto del sistema operativo l'uscita almeno del primo service pack, ovvero della prima grossa mole di correzioni che andavano a tappare tutti i buchi lasciati aperti dall'incombenza della release delle precedenti versioni di Windows. Ad esempio, come è successo per XP, che ha avuto necessità di un service pack, quindi di un aggiornamento di circa 300 mega nei primi 6 mesi di vita. Esatto, quindi se ci può consolare, Microsoft ha già annunciato il primo service pack di Windows. Lo stavo per dire io. Sì, e appunto ha già colpiscilo quando fa così. Ha già annunciato che probabilmente entro i prossimi 6 mesi avremo già la prima release, il primo service pack appunto dal nuovo sistema operativo Vista, quindi con un sacco di correzioni che ovviamente non saranno state corrette a oggi. Quindi ti vendono un bidone che ti hanno fatto aspettare per 2 anni e ti dicono tranquillo, tra 6 mesi lo aggiustiamo. Sì, ma la cosa più divertente è il fatto che Microsoft Vista erediterà i problemi di Windows XP, e quindi questo è già fosse... Tra l'altro leggevo un articolo appunto dove diceva che i vari produttori di antivirus e di sistemi di controllo per... appunto dei sistemi Microsoft che si sa nascono decisamente sprovvisti di meccanismi di protezione e quant'altro. Anche se pare che su Vista ci sia un tool già inserito chiaramente per fare concorrenza. C'è ancora qualcosa forse anche su quello. Allora, in particolare i produttori di antivirus sono stati molto più lenti nel recepire appunto la nuova release di quanto invece sono stati tutti i produttori di virus, di Trojan e di... per cui appunto quell'analisi diceva che quasi tutti i virus che giravano precedentemente su XP erano già stati fatti passare tutti già pronti per funzionare su Vista, mentre invece un po' di antivirus avevano avuto qualche problemino per riuscire a entrare nel nuovo sistema operativo. Vabbè, ma scusate, cioè questa però è anche un'ovvietà: chi comprerebbe un antivirus se non ci fossero già i virus pronti per Microsoft Windows Vista? Questo è ovvio. E l'ultima notizia, è, ne abbiamo già parlato nelle altre puntate, Windows Vista è la prima implementazione del trusted, di un sistema full trusted computing con appunto la riduzione della qualità dei contenuti multimediali di cui secondo Vista non abbiamo il diritto di... Io non ho capito una parola. Okay. Che stai dicendo? Riparto, Marco. Allora. Okay. Windows Vista implementa un sistema di controllo dei contenuti multimediali, sì. Ovvero se tu hai preso un DVD originale e lo stai guardando con un sistema tutto perfetto per la visualizzazione dei DVD, allora te lo fa vedere a alta qualità. Se però decide ad esempio che tu questo DVD l'hai preso sì originale, però magari il tuo monitor non supporta il sistema di criptazione che Vista ha deciso, non ci sono ancora monitor che supportano questi sistemi di criptazione, allora Vista decide di far andare a bassa qualità il tuo filmato, ovvero al posto di avere la risoluzione di un DVD ti viene passata una risoluzione paragonabile a quella di una videocassetta VHS di 10 anni fa, registrata pure male. Ecco, questo sistema di questo DRM inserito all'interno di Vista è stato recentemente craccato da un tizio di cui purtroppo non ho il nome, non mi sono dimenticato di segnarlo, però che non ha ancora pubblicato informazioni più precise in quanto ha paura delle ritorsioni legali che la Microsoft appunto prenderà nei suoi confronti quando lui appunto distribuirà questo tool per avremo un nuovo DVD John, avremo un nuovo DVD John, purtroppo potrebbe essere un caso del genere. No, più che altro una roba tipo non mi viene il nome, vabbè, niente. Fare un no, uno stacco musicale ancora no. Allora continuiamo a parlare di diritto d'autore, la decisione recente di perseguitare un autore, un artista, diciamo così, un collezionista che aveva fatto un sito internet in cui commentava le opere di artisti viventi o morti da meno di 70 anni, un sito che è stato online per circa 54 mesi e secondo la legge sul diritto d'autore si può essere puniti in maniera molto più pesante se si sfrutta l'opera d'arte altrui, e questo pare, secondo la SIAE, che sia uno di quei casi. Di che cosa stiamo parlando? Una multa di quasi 5.000 euro da un proprietario di un sito amatoriale ad un proprietario di un sito amatoriale e non commerciale. Questa è quello che è successo al sito www.homolaicus.com, pagine sparse tra arte e cultura, fatte curate da Enrico Gavalotti, un malcapitato purtroppo, perché utilizzava le sue conoscenze per parlare di numerosi artisti, pittori e scultori contemporanei, presentava le loro opere e quindi faceva anche pubblicità a questi autori, viene da dire. La SIAE invece mette sullo stesso piano l'opera d'arte, quindi il quadro, la scultura e quant'altro, con la sua riproduzione, quindi la fotografia di un quadro può essere molto simile all'originale, è vero, da un certo punto di vista, però la fotografia di una scultura sicuramente non c'entra assolutamente nulla. Quindi, per esempio, in questo caso la legge non bada a sottigliezze, la foto di un'opera d'arte è vietata e si rischia di sfruttare indebitamente l'ingegno altrui, e la multa recapitata è di 4.700 euro, una totale. E quello che è la cosa buffa è che la SIAE addirittura dice di aver applicato uno sconto nei confronti di questa multa. Altra cosa interessante è che alcune delle opere di cui la SIAE protegge il copyright in realtà sono opere di Picasso e di Kandinsky, che sono chiaramente teoricamente dovrebbero essere fuori dalla protezione del diritto d'autore perché sono passati 70 anni dalla morte. Il problema è che ci sono gli eredi. E quindi c'è stato questo passaggio di proprietà, per cui di fatto queste opere sono ancora protette dal diritto d'autore. Ne avevamo già parlato quando avevamo parlato delle varie riforme delle protezioni a livello internazionale del diritto d'autore, e questi sono degli effetti, altri effetti di questi tipi di normative. Cosa buffa, per dare un'idea di quello che costerebbe essere in regola, fino a 1.000 immagini per un mese costerebbe pubblicarli sul proprio sito internet 500 euro, il che ovviamente suddiviso per un anno è di circa 6.000 euro, quindi suona decisamente diverso da quello che metto. Quindi per fare un sito senza scopo di lucro ci vogliono dei benefattori, in sostanza. Beh, un piccolo portale di un sito d'arte potrebbe tranquillamente raggiungere le 2 o 3.000 immagini, e quindi immaginiamoci che cosa potrebbe andare a costare. Questo ovviamente ancora una volta sono quegli ennesimi casi che vanno a diciamo così limitare la diffusione della cultura e dell'arte, come spesso capita quando le opere vengono protette da copyright. E tra l'altro viene da dire purtroppo gli stessi autori saranno meno conosciuti, proprio perché se uno dovesse pubblicare e pagare 500 euro per pubblicare le opere di un autore magari semi sconosciuto, non lo farebbe mai. A questo proposito c'è l'associazione all'altro consumo, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione di cui abbiamo parlato settimana scorsa, e ha fatto partire una petizione indirizzata ai Ministeri dei Beni Culturali e al Presidente della Commissione Cultura della Camera, affinché venga rivisto la legge Urbani, sostanzialmente quella che oggi protegge il diritto d'autore. E spiega l'associazione: quello che ci chiediamo è se abbia senso considerare reato scaricare e condividere file coperti da copyright se non c'è scopo di lucro, reato previsto sì dalla legge ma quasi mai perseguito dai pubblici ministeri e di fatto non percepito come tale dalla maggior parte dei cittadini. E vabbè, proseguono poi una serie di considerazioni. E da qui le richieste della petizione sono: abolizione delle sanzioni penali per chi scarica e condivide contenuti protetti senza finalità di lucro, quella che a fronte anche della sentenza di cui abbiamo parlato la settimana scorsa diverrebbe quindi legale; realizzazione di un mercato moderno, efficiente e concorrenziale dei contenuti digitali basato su una gestione dei diritti d'autore digitali che rispetti anche i diritti degli utenti; divieto della coesistenza di DRM ed equo compenso. E con questi sistemi, conclude, il consumatore rischia di pagare più volte, oltre a non poter eseguire la copia privata e essere limitato nella scelta delle tecnologie e dei supporti informatici che preferisce. Beh, cambiamo decisamente argomento, mentre Alessandro mi va a recuperare l'articolo del voto elettronico che è sul web. Allora, abbiamo parlato, scusa, è lì tra l'elenco dei vari tab aperti. Allora, la Diebold è una ditta americana che produce, tra le altre cose... Scusa. Vabbè, scusa, io propongo uno stacco musicale però a questo punto... Ce l'abbiamo, lo facciamo e lasciamo che Marco si ripigli un secondo. Andiamo ad ascoltarci una canzone tratta da cosa, Ale? Sempre da Yamendo. Andiamo a prendere dalla lista autogenerata: codice PIN errato, tentativi rimasti 2. Mi piaceva il titolo. l'ultima parte della trasmissione dopo questo codice PIN errato, tentativi rimasti due, che sicuramente il titolo era molto carino, poi non è il mio genere di musica. Era molto carina la canzone. Appunto, da me non mi piace un cazzo. Solito, da adesso in poi solo gli Amendo sezione jazz. Fascista e il suo jazz, ma lei vuole... Andiamo avanti con la trasmissione. Imponici qualcosa col vento, Marco. Impongo una testata. Allora, volevo parlare della macchinetta per il voto elettronico negli Stati Uniti. Cosa? Diebold. Diebold produce delle macchine per fare le votazioni in formato elettronico, ovvero... Grazie Ale. Ovvero sia, al posto di compilare la scheda bisogna cliccare su uno schermo o qualcosa del genere. La Diebold è da sempre al centro di grossi problemi di sicurezza di un sacco di gente, appunto, sicuramente queste macchine siano fatte col di dietro, che sia facilissimo taroccare i risultati, cosa che effettivamente, e ci sono state molte dimostrazioni appunto che queste cose fossero possibili da fare mediante accesso diretto alla scheda, si poteva sostituire il database dei voti e altre cose. Non ce la fa. Ebbene, sul sito della Diebold dei tizi hanno scovato una specie di sistema di vendita dei ricambi di queste macchine, che ovviamente possono essere comprati soltanto da coloro che hanno già comprato una macchina della Diebold, e tra questi c'era la chiave per aprire appunto questa macchinetta, e c'era la fotografia della chiave per aprire questa macchinetta. Questi tizi si sono armati di santa pazienza di qualche lima e hanno fatto una chiave uguale a quella che era appunto pubblicizzata sul sito, e miracolosamente questa chiavetta è riuscita ad aprire una delle macchine della Diebold. E dov'è che l'hanno trovata loro una macchina della Diebold? Beh, ci sono penso in tutti i comuni che avevano fatto il voto elettronico, per cui un po' di comuni. Ah, le hanno lasciate lì? Beh, penso di sì, non lo so. Fanno parte dell'infrastruttura. Insomma, su YouTube c'era questo filmato, c'è ancora spero, che appunto dimostrava che questa chiavetta fasulla fosse in grado di aprire la macchinetta della Diebold. In conseguenza di questo, dopo alcune ore sul sito della Diebold è scomparsa la fotografia della chiave ed è comparsa al suo posto la foto di una scheda magnetica. Hanno cambiato il sistema di protezione in tempo reale. O forse, no, il sistema di protezione no, perché queste macchine ne hanno già venduto un sacco e non so quanto sia l'appalto che ha preso dal governo americano, però insomma, come a dire, la chiave forse potevate riuscire a copiarla, è una scheda magnetica un po' più complicata. Vediamo se qualcuno, ma non è impossibile. Vediamo se qualcuno ci riesce partendo dalla fotografia. Dalla fotografia. Allora, possiamo tranquillamente raccontare l'ultima versione di Internet Explorer 7, a cui noi abbiamo fatto un click e si è chiusa completamente. C'è esploso un Internet Explorer tra le mani. Un grazie alla redazione della radio che ci ha sempre fornito. No, allora, Internet Explorer non c'erano ancora un paio di notizie. Allora, quella diciamo più interessante è un'intervista fatta da Pogue Online a il proprietario, non so, l'amministratore delegato di NGI. Vabbè, non per fare pubblicità, però l'intervista è abbastanza interessante proprio per alcune considerazioni che fa sulla situazione delle telecomunicazioni italiane, e in particolare su un progetto che NGI ha portato avanti, ovvero la copertura attraverso una tecnologia molto simile a quella del wireless tradizionale che utilizziamo in casa, per coprire appunto comuni che non sono coperti dalla rete ADSL di Telecom Italia, che al momento è un po' l'unica che riesce ad arrivare dappertutto, teoricamente, cioè quella che ha la rete maggiore e che avrebbe la possibilità di arrivare ovunque. Innanzitutto parte dal fatto che appunto questo l'amministratore delegato di NGI vive in un posto dove non c'è la copertura DSL. Si chiama Luca Spada, e dice no, io volevo la DSL, però Telecom non me la portava. Allora perché non fondare un'azienda che ti porti la DSL? No, no, NGI già esisteva. NGI, okay. No, è un'azienda come altre, vabbè, è il provider del circolo, però non è pubblicità, non abbiamo nessun tipo di ritorno purtroppo. Ma comunque dice, ho passato 2 mesi quest'estate a studiarmi le radiofrequenze. E poi ha tirato fuori l'idea e montando un'antenna vicino a Varese, a Casciago, dove abita lui, e si è montato un'antenna vicino su un promontorio lì vicino, utilizzandola come ripetitore e portando la linea da un paese che invece lì vicino, dove era già presente una linea portante. E lui adesso ha la DSL. E siccome ha visto che la cosa funzionava, ha deciso di implementarla nella sua azienda NGI. E allo stato attuale, quindi da quest'estate, NGI è riuscito a coprire 170 comuni e un bacino di utenti di 300.000 utenti. Un bacino potenziale di 300.000 utenti. La tecnologia, abbiamo detto, è molto simile, non è il WiMAX di cui abbiamo parlato qualche volta, è una tecnologia abbastanza simile a quelle che si utilizzano dagli access point casalinghi. Permette una connessione netta fino a 24 megabit, che è molto di più di una normale DSL, che sarà però, vabbè, commercializzata anche con tagli minori. Sì, sì, no, solo in tagli minori, dice da 2, 3, 4 mega, quindi come una DSL tradizionale. Hanno fatto alcune prove, hanno visto che tutto sommato regge alla maggior parte delle interferenze come pioggia, neve, eccetera. Altre cose interessanti, dice che come prima scelta hanno deciso di non utilizzare la fibra di Telecom Italia per portare la rete a questi sistemi di trasmissione radio. E se la affittano da chiunque altro purché non sia Telecom Italia. E come mai questa ragione, questa scelta? Probabilmente essendo il fatto che NGI è da sempre un internet provider, facciamo speculazioni, e che ha da sempre avuto a che fare con Telecom Italia, probabilmente è un po' stufa del servizio del monopolista della connettività internet italiana e quindi cerca in ogni modo di non utilizzare la fibra di Telecom, al punto che questo progetto chiamato Eolo lo portano soltanto dove riescono a raggiungere le antenne utilizzando fibra ottica non di proprietà Telecom. Se un posto arriva solo la fibra ottica di Telecom, da lì non utilizzano per rilanciare poi il segnale Abbiamo capito. In particolare, dice, il mio sogno da sempre è di costruire una rete di accesso completamente svincolata da Telecom e dai suoi arbitri. NGI non ha scelto la strada dell'unbounding, cioè del portare in casa, come Wind, diciamo. NGI non ha scelto la strada dell'unbounding perché in quel modo si resta comunque nelle mani di Telecom Italia. E poi spiega, devi appoggiarti sulle sue centrali, motivo per cui spesso vi dicono che non si sa quando arriverà la DSL, anche se abitate nel centro città. Devi fare capo a Telecom per lavori, per rilevamenti, devi pagare l'elettricità per uso della centrale, l'affitto del doppino e altro ancora. Hai controllo sulla rete con il tuo DSLAM, che è l'apparecchietto, diciamo, per le reti cittadine, che hai piazzato nella centrale, ma passi sempre dalle forche di Telecom. Se hai problemi al doppino, sempre da Telecom devi andare. L'unica cosa per emanciparsi è il wireless, per arrivare a casa dell'utente senza scavare. Gli scavi per costruire reti fisse alternative a Telecom hanno infatti costi oltre l'esorbitante. Chiaramente Telecom non li ha fatti questi scavi, li ha ereditati dallo Stato italiano, però è un'azienda privata. L'ultima segnalazione al volo: in Norvegia è stato dichiarato fuori legge il DRM della Apple, cioè quello che viene utilizzato per iTunes, che è il sito che vende musica online, che, su cui si può comprare solo roba che possa poi essere suonata su un iPod. La sentenza che ammazza questo Fair Play probabilmente sarà destinata a influenzare il futuro di iTunes, o almeno possiamo sperare così, e questa è stata una battaglia di una campagna di un'associazione di consumatori, Norwegian Consumer Ombudsman, che sicuramente non avrò pronunciato perfetto. Comunque sono già 35 minuti che siamo in onda con questa trasmissione, potremmo passare quasi subito. No, volevo magari dire due minuti goodbye Microsoft. Ah, è vero, sì, questa hai è carina. 30 secondi. Allora, una distribuzione... No! Allora... Per cercare di. Per gli utenti meno esperti, meno sgamati, che magari hanno problemi a accedere al BIOS della macchina e a configurarlo in modo di fare il boot da CD con lo scopo di far partire. Che non hanno capito niente, cioè, di Linux. Chi vuole installare Linux molto facilmente, esatto. Si traducono le parole di Marco GH. Va bene. Ha un'altra possibilità oggi. Può andare sul sito www.goodbye-microsoft.com, cliccare su un programmino. Che lì è presente e che permette di installare una distribuzione Linux, la Debian in particolare. No! Semplicemente con pochi clic. Come Debian? Io pensavo Ubuntu. No! Debian. Ubuntu ha fatto la stessa identica cosa, sono due approcci un po' diversi tecnicamente, ma alla fine il risultato è quello di fare tutto senza dover andare a configurare nel BIOS il boot da CD o altre cose strane. Semplicemente con qualche clic e permettono appunto di installare Linux con molta più facilità. Goodbye Microsoft.com e goodbye a tutti voi.com. Ah, volevo aggiungere solo una cosa, giusto per capire cosa vuol dire dipendere da Telecom Italia. Avete provato ad andare in posta stamattina? Bene, oggi a Brescia tutte le poste di Brescia non funzionavano perché non c'era la linea, grazie a Telecom Italia. Bene. E con questo si chiude Cialtroni nello spazio. Ogni mercoledì attorno alle 12.40 fino alle 13.20 più o meno, chi lo sa, dipende ogni volta. E noi siamo raggiungibili all'indirizzo radio @circolab.net. Chi vuole venire con noi in trasmissione può anche contattarci. O se avete dei dubbi o delle cose, curiosità, volete che parliamo male di qualcosa, di qualcuno. Chi ha un ultimo modello di stampante che non funziona sotto Linux può chiamare a contattare direttamente Marco GH. Magari passate al Circo Lab la domenica dalle 5:05 e un quarto fino a Fratelli Bandiera 14:09. Sì, 14F. E con questo abbiamo detto più o meno tutto, l'abbiamo detto più o meno bene, più o meno male, chi lo sa. Appuntamento per mercoledì prossimo con Cialtroni nello spazio. Ciao.